è difficile dare una risposta univoca. Sicuramente c'è un dato nazionale e che diciamo è oltre anche ovviamente la realtà locale di affermazione della Lega e dei contenuti della Lega, perché non è l'affermazione ovviamente solo del partito leghista e nemmeno della maggioranza di governo. Sicuramente a Ferrara probabilmente negli anni sono stati fatti degli errori, sicuramente è emerso come dato una sorta di sfaldamento anche tutta la realtà alternativa diciamo di sinistra. Sicuramente ha giocato molto un ruolo importante l'aspetto della sicurezza. Poi Ferrara paragonata a Bologna probabilmente sembra il paesello tranquillo e sicuramente l'immagine che in alcuni media hanno sono state date da penso Rete4, altro, dove veniva dato grande spazio al leader reale della Lega a Ferrara, che è Naumo Lodi, quello delle barricate di Torino per intenderci, sicuramente è un'immagine di una città invece assediata dalla tra virgolette mafia nigeriana. Poi insomma bisogna anche lì capire esattamente di cosa si tratta. In realtà c'è un quartiere di Ferrara, ma in realtà nemmeno tutto il quartiere, io stessa ci vivo e non posso dire di sentirmi insicura, però ci sono delle aree di questo quartiere effettivamente dove c'è una forte sensazione di pericolo, ci sono risse ricorrenti. Queste piccole cose però messe insieme in una realtà come quella ferrarese sicuramente hanno ingenerato una forma di paura molto forte, che è stata ampiamente cavalcata dalla Lega e sapientemente cavalcata dalla Lega. Viceversa, probabilmente il governo targato PD che ha governato negli ultimi anni, comunque insomma a Ferrara la storia è quella del PC, PDS, DS e poi PD, per inciso PC che si accordava insomma con anche la DC, quindi diciamo che era un po' il classico modello delle nostre zone, e però appunto il PD probabilmente non ha saputo dare le giuste risposte. Va detto che, e questo credo che sia un dato di fatto, tanto il PD quanto anche candidature tra virgolette che volevano essere alternative a quella del PD, in realtà erano candidature che provenivano dalla giunta, ma non che provenivano ed erano uscite dalla giunta, ma che erano tuttora permanenti nella giunta, per cui abbiamo avuto anche tra virgolette la candidata alternativa al PD che era assessore e mai dimessa, quindi fino all'ultimo è stata assessore nella stessa giunta. Chiaramente questo non ha dato un'idea di discontinuità di cui forse c'era bisogno. Dall'altro lato la sinistra non ha saputo presentare una candidatura alternativa e una proposta alternativa, e questo è un altro elemento che ovviamente nelle prossime settimane dovrà essere di grande riflessione. C'è un altro dato che secondo me deve emergere, e che è che negli ultimi 15 giorni il candidato del PD, Aldo Modonesi, che tra l'altro insomma sarebbe stato giudicato in generale comunque come non certo un pessimo amministratore, sia chiaro, al di là dell'area di appartenenza e quindi insomma ovviamente da un'impostazione di un certo tipo delle politiche, però ripeto, Aldo Modonesi, che alla fine è andato al ballottaggio contro Alan Fabbri, candidato della Lega, ha fatto una serie di apparentamenti, cosa che Alan Fabbri non ha fatto, però in questi 15 giorni, se andiamo a vedere in quanti poi hanno votato, facendo la somma dei voti presi dagli altri candidati sindaco che poi si sono apparentati, vediamo che Aldo Modonesi ha perso più di 4.000 voti sulla carta. Chiaramente è vero che al ballottaggio c'è una minore affluenza, è vero però che in questo contesto Alan Fabbri ne ha guadagnati 900. Ecco, forse va fatta una riflessione anche su come è stata condotta la dialettica e tutto il resto, però ripeto, diciamo che qualcuno dava addirittura Fabbri vincitore al primo turno anche di giornalisti locali, quindi insomma forse era un po' un risultato che sicuramente non si cambiava negli ultime 2 settimane. A proposito di dialettica, ti volevo chiedere come è stata questa campagna elettorale, in particolare nella come dire, come l'ha condotta Alan Fabbri. Ha avuto un atteggiamento aggressivo alla Salvini per intenderci, o ha tenuto conto di un contesto diverso? In realtà Alan Fabbri è stato il mimetismo. Alan Fabbri è sparito in questa campagna elettorale, lo si vedeva in giro, questo sì, diversi l'hanno avvistato presso i bar delle frazioni, presso i luoghi di ritrovo della gente comune, sicuramente è stata una cosa molto tattica. Alan Fabbri si è rifiutato di partecipare a praticamente tutti i confronti, e peraltro non ha partecipato nemmeno al confronto organizzato da il comitato residenti GAD, della zona GAD, che appunto è questo quartiere, e questo comitato non è certo fatto da persone di sinistra, è un comitato fatto da gente, anzi, che l'ispirazione è di destra. Anche l'incontro che loro avevano organizzato pochi giorni dal ballottaggio fra appunto i due candidati, mi pare il venerdì doveva essere, l'incontro è saltato perché Alan Fabbri ha deciso che non voleva confrontarsi. Perché l'ha fatto? Qualcuno sostiene che sia perché non era in grado di sostenere un confronto politico con Aldo Modonesi. Altri hanno pensato fosse una tattica anche per evitare magari un confronto da cui emergeva magari un incattivimento, o qualcun altro banalmente pensa che ci fosse un disinteresse a confrontarsi con gli altri politici, per poi invece magari una politica più simile a quella del Salvini, dei selfie e delle piazze. A Ferrara Salvini è venuto due volte, una volta prima del primo turno, una volta prima del ballottaggio. Se devo dire, anche in quel contesto Fabbri non si è esposto, abbia parlato poco, senza particolari spicchi, insomma, ha tenuto i toni abbastanza bassi, e dall'altro lato invece ha lasciato lo spazio a un Salvini che, insomma, poi si è mosso come un po' ovunque in Italia e a suon di slogan e selfie. Va detto però che Fabbri non aveva bisogno di fare campagna elettorale a Ferrara, perché sono dal 2016 che Naumo Lodi fa campagna tutti i giorni a Ferrara. Naumo Lodi è lui il punto di riferimento della Lega a Ferrara, l'uomo che viene mandato avanti, che rompe le linee nemiche, è quello che si fa vedere nel quartiere, è quello che va a fare le dirette su Facebook inseguendo gli spaccini o chiedendo i documenti in giro, tanto che in altre epoche magari ci avrebbero fatto magari un po' sorridere, l'avrebbero reso un personaggio curioso e quant'altro. Invece questa operazione in questo contesto, anche in questo momento storico, nel contesto ferrarese, ha fatto sì che questi anni di campagna elettorale abbiano portato, insomma, a Fabbri a un risultato che appunto è sotto gli occhi di tutti. Dall'altro lato va detto che se Naumo è quello dei calci in culo, scusate, però è proprio la terminologia da lui usata agli immigrati, ai rifugiati, tant'è che fino a qualche tempo fa nella copertina della pagina Facebook di Naumo c'era questa immagine che gli avevano fatto con lui che dava un calcio alla classica immagine dei rifugiati che scappano, della famiglia di rifugiati che corre via, e c'era lui con il calcio, quindi insomma, questa è l'iconografia poi della vera Lega ferrarese. Dall'altro lato Fabbri è la Lega ripulita, se posso così definirla, non è quello che va a fare le dirette, tende a non essere mai sopra le righe. Ieri sera lui ha dichiarato: io sarò il sindaco di tutti. Certo, dichiarazione dovuta, però mentre lui lo dichiarava c'era qualcuno che metteva giù dallo scalone del comune di Ferrara, che dà sulla piazza municipale, per chi non lo sapesse, quindi comunque un punto di grande passaggio e anche un luogo simbolico, perché insomma è da lì che si sale in comune e via dicendo, la bandiera della Lega, fra l'altro a coprire, lo spazio ce n'era tanto, però a coprire lo striscione dedicato a Giulio Regeni. Ci racconta una Lega, diciamo, a due teste, però due teste che in realtà servono a parlare due pezzi di mondo, non sono due teste che si mangiano l'una con l'altra. Sicuramente il pezzo chiave su cui però dovremo ragionare è anche quello di creare una sorta di osservatorio su quello che succederà a Ferrara, non perdere dei pezzi e cercare di capire quello che questi faranno e capire come contrastarlo, dico io, anche da fuori le istituzioni, perché in realtà bisogna ricostruire una relazione con i cittadini, con la società ferrarese, che evidentemente in questi anni è sparita.